Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Mi chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto. Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino. Faccia così, vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita. Mi favorisca la sua carta d'identità. Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, ecco le foto. Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la carta d'identità. Io vengo dallo sportello 16. Se non mi dà la carta d'identità io non le do il certificato di nascita. Io sono andato allo sportello 2, come mi hai detto tu. E quello dice che se non gli do la carta d'identità non mi può dare il certificato di nascita, l'ha detto lui. Ma io non le posso dare la carta d'identità senza il certificato di nascita. Torni allo sportello 2 e poi venga qui con la carta d'identità. Ehi Paco, ma che ti sei rimbambito? Perché mi hai mandato questo? Non lo sai che se non c'ho la carta d'identità non glielo posso dare il certificato di nascita? Ma che vuoi da me? Io non ho il certificato di nascita, non gli do niente, rimbambito! Non posso. Era Bud Spencer, la burocrazia è uno dei mali d'Italia, costa il 2% del PIL e fa storcere gli investitori stranieri, non fa andare avanti il paese, provvedimenti e decreti rimangono sulla carta, bloccati. Bruno Tabacci, buongiorno. Presidente della Commissione bicamerale per la semplificazione. Intanto voi il vostro lavoro lo continuate comunque, vada a finire il governo, no? Se non... non c'è dubbio. Ecco, no, era per dare una certezza. Siamo nel pieno di una indagine conoscitiva molto approfondita. Abbiamo appena ascoltato stamattina il presidente di Federdistribuzione, Cobolli Gigli. Il quadro che viene fuori è quello che lei ha anticipato. È questo qua, è quello che stiamo... Ma c'è speranza, oppure per le medie, piccole e medie imprese soprattutto, che soffrono più degli altri, almeno sono in prima linea o sono destinate a morire di burocrazia? Guarda, il disastro che si è determinato nel corso degli ultimi anni, in particolare, origina specificatamente dal famoso titolo quinto, cioè la indicazione di una sovrapposizione tra competenze dello Stato e competenze delle regioni, esatto, con il risultato pratico che si sono sommate le une e le altre. Facciamo un esempio pratico. Sì. L'altro giorno abbiamo ascoltato il presidente di Confetra, il presidente dell'associazione dei trasportatori, e quindi esperto massimamente in logistica, sì, e ci dice che per un trasporto eccezionale che va dal Friuli alla Sicilia ogni regione lo deve autorizzare, quindi ci vogliono 5-6 carte bollate, per cui il camion peggio che parte... dei dazi di una volta. Capito, quindi stiamo parlando di cose che sono assurde. Ma quindi la riforma del titolo quinto, diciamo che si impone proprio di tutta evidenza. Ma è fondamentale, perché guardi che la Corte Costituzionale sta lavorando solo sul contenzioso tra Stato e Regioni. Certo. Ora, quella materia concorrente che è a cavallo tra Stato e Regioni va chiarita. Si deve decidere chi fa che cosa. Lo fa lo Stato o lo fa lo Stato? Però lo fa e basta. Diversamente lo devono fare le Regioni. Non è possibile che si dia... Un po' lo fa lo Stato, un po' le Regioni. Pensi che perfino le professioni, l'ordinamento delle professioni è affidato sia allo Stato che alle regioni, come se noi potessimo stare in Europa con gli avvocati lucani che hanno un ordinamento diverso da quelli campani, ecco, o da quelli milanesi. Onorevole Tabacci, intanto voi avete una funzione conoscitiva o deliberate qualcosa? No, noi abbiamo una funzione conoscitiva, ma concluderemo con un articolato che presenteremo al Parlamento. Ecco, però, dopodiché ognuno si assumerà, come si suol dire, le sue responsabilità. Cioè, noi abbiamo letto questa cosa e la vediamo in maniera di grande preoccupazione, perché non c'è certamente dubbio sul fatto, come ha detto lei, che questo almeno costi il 2% del PIL e comunque incide negativamente sulle capacità di competere. Ecco, però intanto su 831 provvedimenti, 807 devono ancora essere adottati. Cioè, dopo quanto tempo si converte una legge in decreto? Quando uno dice facciamo, in realtà non dice facciamo, dice faremo. Ma guardi, la legislazione è andata degradando nel corso di questi anni, quindi non c'è solo il problema del titolo quinto, c'è anche il meccanismo che è stato introdotto nelle ultime manovre economiche, almeno degli ultimi tre governi. Tremonti è stato un maestro in queste cose, per cui si rinviava ad un decreto attuativo successivo, esatto. Solo che il decreto attuativo successivo non arrivava. Deve avere il concerto dell'economia. Se non c'è il concerto dell'economia, quello resta lettera morta. Oggi, come lei ha ricordato, sono 482, secondo la recente indagine del Sole 24 ore i decreti attuativi che mancano alla quindi si fa finta anche quando si dice governiamo, si fa finta, esatto, nel senso che c'è un effetto annuncio, si annuncia che ci siamo occupati degli orari dei negozi, uno ci crede, non è vero, esattamente, uno ci vede. Ecco, senta, Letta sta tentando il suo terzo tentativo di ripartenza, ogni volta promette investimenti, semplificazione, l'ha fatto ieri all'Expo, ma è possibile crederci? Ma guardi, io penso che in queste settimane il presidente Letta diciamo che ha perso l'occasione per andare verso un rilancio che non c'è stato, che oggettivamente non c'è stato. Anzi, io ho stimato e stimo il presidente Letta, che ha operato benissimo sul terreno internazionale. Sul terreno della politica interna probabilmente ha sottovalutato. Vabbè, siamo a questi numeri che abbiamo dato. Esatto. Ecco, lei ieri ha visto Renzi, avete parlato dell'ipotesi del governo? Ma no, insomma, eravamo dentro nella... Vabbè, intanto non me lo direbbe. Ci sta allungando il naso, Presidente Tabacci. E Secchi, Mario Secchi. No, va bene, un po' di naso non... Non fa male, un po' di naso più lungo. No, cioè... Senta, ma insomma, un'ultima cosa, questo cambio ci sarà domani? Ma secondo me, al momento in cui sono arrivato le cose, è ragionevole e penso che debba venire anche con un'intesa, non credo che debba essere domani il PD che fa un'azione di forza, perché sarebbe sbagliatissimo, insomma. Da questo punto di vista una sana cultura democristiana non sbaglia, perché i democristiani hanno insegnato... Mi facevano fare il presidente, il ministro degli esteri. Trovavano un modo per coinvolgere, scusi, se si sono messi d'accordo nel corso degli anni Fanfani e Andreotti, che come lei sa benissimo, non è che proprio si amavano, vuol dire che questi due giovani politici che sono una delle che sono la speranza dell'Italia, che si mettano d'accordo. Vabbè, quindi insomma domani andremo verso il governo Renzi, penso di sì. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie, arrivederci. La giornata comincia inderogabilmente alle 7 del mattino con l'infermiera. Lui ha bisogno di 2 o 3 ore di fisioterapia ogni mattina. Allora, per comunicare avete un baby phone, è come un walkie-talkie. Lei lo sente, lui la sente. E la gonna non ce l'ha? Queste sono calze contenitive, se non le metto il sangue circola male e corro il rischio di svenire. Io però le calze non gliele metto, c'è un piccolo problema. Il problema è che visto che io non lo faccio, a un certo punto bisogna che... Marcel! Se Marcel può tornare per mettergliele lei. Oltretutto sa come fare, visto che è una donna, e quindi... Ma ora che mi infila le calze vedo che porta un grazioso orecchino, lo trovo molto coerente. La smette di dire cazzate. Sembra che non abbia fatto altro in vita sua. Davvero non ha mai pensato di fare un bel corso da estetista? Ecco, questa è fatta. A che servono questi guanti? No, per i guanti dobbiamo aspettare ancora un po'. Penso che lei non sia ancora pronto. Glielo spiegheremo più avanti. Era una scena del film Quasi Amici, che racconta l'amicizia nata tra un uomo tetraplegico e un ragazzo, un badante che si prende cura di lui. L'Italia ha registrato un aumento del 53% di badanti negli ultimi 10 anni. Esther, una di loro, ci racconta la sua esperienza. Esther, buongiorno. Senta, ma quanti anni ha lei? Io adesso ho 54 anni. E da quanti anni è in Italia? Praticamente dal 91. Perché ha deciso di fare la badante? È una scelta o è capitato? Beh, primariamente è capitata. Poi a me piace assistere le persone anziane, una cosa pure anche da me. Di carattere, diciamo. Sì, pure tanto tanto di carattere. Senta, ma ha fatto una scuola per fare la badante o ha imparato facendolo? Al principio l'ho imparato così da sola, poi abbiamo fatto uno studio al Gemelli, assistente familiare. E quali sono le difficoltà più grandi nel fare questo suo mestiere, Esther? Beh, io veramente fino adesso non ho avuto problema di nessun tipo, tanto della persona con chi anziana o con le famiglie. Ma lei ha fatto la badante con persone anziane che avessero degli handicap gravi oppure persone che semplicemente erano anziane? No, semplicemente erano anziane. E lei fa un po' di tutto? Li cura, fa i lavori domestici, un po' di tutto? Sì, un po' di tutto. Ecco, ma le famiglie degli anziani in genere collaborano oppure no? Guarda, fino adesso mi ha toccato tutte le famiglie che collaborano con la persona anziana. A me praticamente mi proteggono, cercano di aiutarmi. Se la persona anziana diventa un po' cattiva a un certo momento, loro mi dicono, vabbè, non c'è problema, che un po' di pazienza. Sì, ce l'ho la pazienza. Perché diventano un po' cattivi invecchiando, insomma. Sì, certe volte sì, però bisogna, sai, trattarle con molto amore. Alle persone anziane si deve avere tanta pazienza, ascoltarle e darle tanto amore, sai, un bacetto, dire sei brava o qualcosa così, che loro li sentono bene. Ecco, almeno per me è stato questo. Certo, e le famiglie la aiutano in questo atteggiamento oppure no? Sono più severi con gli anziani? No, tantissimo, pure le famiglie aiutano e collaborano con me. Ma è difficile, è più facile o difficile trovare lavoro come badante? No, è molto difficile adesso. Prima era molto facile. Perché c'è molta concorrenza? Sicuramente la concorrenza, non lo saprei dire, però in quanto ho cercato, ho trovato, non certo con facilità, però ho trovato. E quanti giorni lavora a settimana? Una volta a settimana, diciamo un giorno a settimana sono libera, poi l'altro giorno E fa turni anche di notte? No, solo la giornata. Ma ha delle conoscenze mediche specifiche oppure quelle così generiche acquisite nel corso che ha fatto al Gemelli? Beh, quello che ho preso al Gemelli. Poi anche la pratica. Grazie Esther. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria, di Neuroscienza, Ortopedia del Policlinico Gemelli. Ecco, abbiamo sentito la storia di Esther, una badante. Qual è la dimensione del fenomeno? 1,5 milioni di grosso modo di badanti certificati, più verosimilmente 500.000 sommerse. Un paio di milioni di persone. Ecco, ma quando le badanti sono diventate realmente sostitutive della solidarietà familiare? Ma guardi, in alcuni casi lo sono certamente, perché il nonno è incontinente, non ci sta con la testa, non si lava, gli ammollo la badante e ho risolto il problema, tra l'altro con una spesa tutto sommato non drammatica, perché con 1.000 euro al mese fai tutto ciò. Ma l'altra parte però è un po' un fai da te degli italiani, cioè non è tanto e solo la sostituzione della solidarietà familiare, ma è la sostituzione di un welfare che non esiste. E quindi sono non autosufficienti. E quindi sono praticamente la nuova colonna del welfare all'italiana. Sono il welfare all'italiana, ripeto, noi siamo bravissimi nel fai da te, non c'è nessun paese al mondo che ha questo fenomeno, perché chi più, chi meno, hanno un'assistenza che va anche a questo tipo di persone e non solo agli ospedali. Ecco, ma con la crisi le famiglie adesso fanno sempre più fatica a pagare questa assistenza privata. Il sistema sanitario come fa a offrire cure necessarie? E quando c'è la crisi il vero bisogno è quello della politica, che su queste cose ponga delle soluzioni. Le faccio un esempio. Oggi ci sono delle tecnologie che permettono di misurare a casa la pressione, la frequenza, il livello dell'ossigeno nel sangue, se stai in piedi o se stai sdraiato perché sei caduto. Ecco, bisogna implementare un sistema tecnologico che permetta di sorvegliare a casa un certo numero di persone che sappiamo che grosso modo non stanno bene. Quindi questo vuol dire un call center dove qualcuno sta a ricevere la domanda, quindi lei non solo assiste le persone ma magari dà anche un po' di lavoro ai giovani. Questo lo fa la politica, non lo facciamo noi. Certo, quindi un'assistenza pubblica sul territorio, insomma, sarebbe una soluzione migliore per gli anziani. Questa è la soluzione, perché di fatto è cambiato il mondo, nel senso che questo fenomeno della non autosufficienza, che ha tutta una serie di dati non solo sanitari ma anche ovviamente sociali, affettivi, però bisogna di qualcuno che gli faccia da regia, se no tra un po' avremo il cattivo odore che ci avvertirà che qualcuno non c'è più. Quindi l'assistenza in Italia, in realtà l'assistenza sul territorio però è praticamente inesistente, lo stiamo dicendo, quindi pesa tutta sul sistema vostro, sul sistema ospedaliero? Pesa tutto sul sistema sistema ospedaliero e su poi i medici di medicina generale, che però è evidente che quando uno è incontinente o la notte si sveglia e urla perché non ci sta con la testa, è evidente che non possono fare alcunché. E che conseguenze comporta questo peso? Ah, venga in pronto soccorso e lo vede subito. C'è un pronto soccorso, il nostro, che è uno dei, credo, tra i più efficienti d'Italia, quello del Gemelli, che ha 70-100 persone in lista di attesa, ma non che stanno lì solo a parcheggiare, hanno una serie di problemi che devono essere evasi e che magari hanno bisogno di 24 ore per essere ricoverati, con tutti i rischi. Senta, ma il 34% delle famiglie che si avvalgono di badanti vorrebbero un registro di collaboratori per avere garanzie. Ci sono regole, perché in effetti uno, abbiamo sentito, comincia a fare la badante facendolo. Esattamente. Così diciamo che ci sono tutta una serie di tentativi. Noi 15 anni fa abbiamo inventato il primo corso per badanti, ormai ne abbiamo laureate, tra virgolette, qualche migliaio. È un modo, cioè almeno averci 160 ore certificate di insegnamento. È un piccolo, però poi tutto il resto non ha nessuna regolamentazione. Professore, si discute da tanto tempo di dare un contributo economico a chi si prende cura di un anziano o di chi ha bisogno di assistenza. Sarebbe una soluzione questa? È un pezzo. Noi abbiamo 13 milioni di ultra 65 anni, circa l'1% ha uno straccio di assistenza domiciliare, nessun paese europeo va sotto il 10%. 10% vuol dire che c'è bisogno di una struttura su cui poi magari inserisci anche qualche aiuto per chi ne ha bisogno, ma se non hai una struttura, una rete di assistenza, signori, parliamo di nulla. E questa è la politica. E questo è la politica, appunto. La cosa che io vedo in questi giorni, anche io ho un ruolo perché faccio anche, mi occupo dell'Agenzia Italiana per l'Invecchiamento, sì. Tutte le cose che ci siamo detti, io e lei che facciamo un mestiere, lei il giornalista, io il tecnico, la tecnologia a casa, la rete di assistenza, sono tutte cose che sono facilmente comprensibili se lei, certo, ci ragiona. E poi però per essere messe in campo è la politica con la P maiuscola. L'ultima cosa che è stata fatta dalla politica in questo senso è della fine degli anni Ottanta, quando quello che fu poi molto odiato, il ministro Don Accattin, trovò i soldi per fare 140.000 posti letto, pensa cosa vuol dire 140.000 posti letto, in strutture per anziani. Di fatto non sono state poi realizzate. E quindi sul tavolo della politica c'è questo dossier, semplice ma definitivo, perché intanto la popolazione aumenta di età. Continua ad aumentare, per cui non è nemmeno, sa, una di quelle cose, c'è un fantasma, una possibilità. Un dato concreto. È una certezza, e sono anche certe le possibili soluzioni, anche se vuole abbastanza semplici, che abbiamo detto. Sì. Qualcuno le metta in piedi. Va bene. Grazie professore, buon lavoro. Grazie. A voi. Marco ci dice, ci scrive, che bella persona Esther, la badante che abbiamo intervistato, Dio la benedica. Abbiamo al telefono Adelaide della provincia di Pisa. Adelaide. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vi ho chiamato, diciamo, sì, perché io compro il giornale per i miei clienti e tutte le mattine c'è una pubblicità che cercano personale per l'assistenza agli anziani. Bene, se uno li chiama e gli dice che sei italiana, ti chiudono il telefono proprio. E questa cosa mi mortifica, perché non è vero che gli italiani non vogliono fare questo lavoro, ma loro cercano delle persone che si sacrificano notte e giorno a un prezzo, uno stipendio così e così, diciamo. Ma quindi lei dice vogliono... ci sono le italiane che vorrebbero fare le badanti, ma le famiglie le rifiutano, questo sta dicendo? Sì, io voglio dire, c'ho anche un po' il dente avvelenato, non lo so, perché purtroppo mio marito è andato via con la badante di sua madre. Ah. Anche questa è una cosa che sta avvenendo. Comunque bisognerebbe un attimino iniziare a dare da lavorare anche. Ah, quindi proprio un'esperienza donne. Un'esperienza dolorosa personale. Sì, va bene, sì, va okay. Bene, la ringrazio. Dopo la pubblicità parleremo con un prete che si occupa proprio di questo tipo di operazioni di badanti che trasportano nei loro paesi anziani con le loro pensioni e i loro patrimoni. Mix 24. 800 24 00 24, numero verde, l'SMS 349 238 6666. Drammatica la storia che ci è stata raccontata un attimo fa, e l'uso delle badanti spesso infatti cambia la struttura dei rapporti familiari. Per esempio, capita, l'abbiamo sentito sempre più spesso, che pensionati, anziani predano, si sposino, si trasferiscono addirittura all'estero portando con sé pensioni e patrimoni. Don Cesare Lo Deserto, che è presidente della Fondazione Regina Pacis in Moldavia, ce l'ha spiegato. Don Cesare, ma è vero che sono molte le badanti moldove in Italia che poi tornano per sposarsi con italiani e vengono a vivere lì? Beh, non ci sono dubbi. Il fenomeno dei badanti rappresenta una realtà nell'est, una realtà in Italia, quindi l'incontro fra due culture diventa anche amore, affetto, famiglia, e questo che lei ha detto accade. Non ci ma sono... è un fenomeno in grande sviluppo nella zona dove sta lei? Sì, cresce sempre di più, anche a motivo della crisi economica. Lo stipendio di un pensionato qui è certamente un ottimo stipendio e permette a una famiglia di vivere più che dignitosamente. Sono unioni che durano poi oppure no? Ma guardi, questo è il fenomeno inizia, per cui dire fino a che punto possono durare non è possibile. Certo è che non sono legami che hanno delle stabilità o delle certezze come noi vorremmo, questo è sicuro. Ecco, Don Cesare, però lei l'ha accennato, con una pensione media, immagino, italiana, lì invece si vive decentemente. Certo, lo stipendio medio nella capitale è di circa 250 euro mese, nelle zone rurali intorno ai 100 euro. Da anche una stessa pensione sociale è più che sufficiente. Don Cesare, ma i matrimoni misti, questo tipo di matrimoni, dalla società civile, come sono visti? Anche il matrimonio con uno straniero è uno sbocco. È uno sbocco, è un'opportunità, è qualcosa di importante. E questo accade anche perché la donna moldava, che è una donna che io ritengo molto coraggiosa, non guarda la differenza di età. Quindi avere un matrimonio con età differenti dai 20 a 30 anni è quasi normale, ma qui è vissuto serenamente. Ma quanti matrimoni in media di questo genere si realizzano? Ma guardi, noi abbiamo adesso, parliamo ovviamente di matrimoni civili, di una media di 5 per settimana. Tra l'Italia e la Moldavia. Molti preferiscono contrarre matrimoni in Moldavia perché i tempi per un eventuale divorzio sono rapidissimi, in pochi mesi si ottiene. In sostanza le autorità locali favoriscono quindi queste unioni? Le autorità locali hanno bisogno di denaro, qui parliamo di rimesse, qui parliamo di denaro che arriva dall'estero, che un tempo arrivava dalle badanti, oggi arriva attraverso le pensioni. Basti pensare che alcuni patronati italiani come ACLI e SIAS hanno qui collocato i loro uffici proprio per assistere questi pensionati. E questi pensionati, rispetto alle famiglie di provenienza, queste pensioni che fuggono, si creano problemi, tensioni? Ma questo è possibile, perché non è tanto la pensione molte volte quanto è l'eredità con la famiglia di origine. Certo, perché poi c'è sempre qualcosa che lega o l'interesse o l'affetto. Importante curare questi rapporti, anche noi facciamo un certo tipo di assistenza, non facile, ma cerchiamo di puntualizzare alcuni principi fondamentali di un vivere normale. Ma Don Cesare, lei appunto lì di che cosa esattamente si occupa? Ma io sono un prete della Chiesa Cattolica, i cattolici qui sono pochissimi, lo 0,5%, ma ci dedichiamo soprattutto alle necessità dei poveri, dei bambini e degli anziani. Oggi mi dedico anche alle necessità di tanti pensionati italiani che hanno bisogno molte volte del consiglio, hanno bisogno della medicina che non trovano, hanno bisogno del pannolone per anziani che qui non esiste, hanno bisogno di tante piccole cose che sono necessarie per la vita serena. Senta Don Cesare, ma se, come dicono le statistiche, il 68% degli emigranti moldavi sono donne, che tipo di società resta? È una società che poi ha dei buchi neri, quindi abbiamo un forte suicidio maschile, abbiamo il fenomeno suicidio maschile sociali. Perché poi le donne vanno via e gli uomini si ammazzano, così? Gli uomini alla fine molte volte perdono proprio, anche soccombono sotto l'alcol e perdono il lume della ragione, e questo è il lume della ragione, lo perdono proprio a causa di questo stato di abbandono. Ma c'è anche il problema degli orfani sociali, cioè questi ragazzi figli di badanti che per noi sono mamme che mancano, che rimangono un po' abbandonati a se stessi. Don Cesare, è vero che le autorità locali sono preoccupate da questo esodo femminile e vietano l'emigrazione delle infermiere? Il governo moldavo vive con trepidazione il fenomeno migratorio. anche perché temono poi che con l'apertura, quindi il visto a free regime, quindi il non visto per entrare in Europa, ci sia un esodo maggiore. Non c'è dubbio che loro cercano di contenere, e basti vedere che le stesse infermiere che comunemente arrivano in Italia da altri paesi dell'est dei Balcani, dalla Moldavia non giungono, perché? Perché il governo ha fatto un'opera di contenimento proprio per evitare, certo, questo esodo che potrebbe impoverire maggiormente il paese. Come mai è andato lì a fare la sua opera di prete? Perché il sud del mondo non sono solamente l'Africa, l'America Latina o l'Oriente, il sud del mondo è anche questo est che sta cambiando, vedete cosa succede in Ucraina. Quindi anche qui ci vuole forse qualche prete cattolico, siamo pochi ma ci siamo, che metta dei puntelli accanto alla gente, sui valori, la famiglia, la vita, i bambini, tutte queste cose. Dobbiamo recuperarli, altrimenti noi generiamo come sempre società malate. Grazie Don Cesare, buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Se mi volessi bene veramente, non mi faresti sfruguriare la gente, non mi tagliassi pizza da paglietta, non mi mettessi la crusca in da giacchetta. Se mi volessi bene mia Luisa, non mi rompissi quello. Allora Pietrangelo, qua? E questa canzone, perché sicuramente l'avrà ascoltata ieri Antonio Polito scrivendo il suo editoriale a proposito della sinistra, dove se si volessero bene veramente, beh, non avrebbero bruciato tre leader in un attimo. Hanno bruciato Bersani, hanno bruciato Letta, adesso il prossimo da bruciare è Matteo Renzi. Ma da, ed da è bruciare? Tutto, ed è tutto un tagliuzzarsi di paglietta. Non lo so. Stefano da Modena, a proposito ancora del discorso che abbiamo fatto, curato naturalmente da Sara Tardelli. Stefano. Buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, volevo dire che una società giusta è in pareggio. I nostri genitori ci hanno cresciuto, ci hanno dato parte della loro vita. È giusto che noi gli diamo una parte della nostra vita. Quindi occupiamoci dei nostri genitori e niente badanti, questo dice lei. No, non niente badanti, non voglio escludere nessuno, ma non voglio dare in mano i miei genitori a degli sconosciuti. Tra parentesi. Sì, sì, no, d'accordo, diciamo quello che vuol dire, per davvero, senza paura. Cioè, occupiamoci dei nostri genitori quando invecchiano. Dei nostri genitori. Grazie Stefano, grazie Mario. No, ma io segnalo sommessamente, per carità, che un genitore adesso in una telefonata è scappato con la badante, quindi insomma non è che fosse proprio scontento della cosa, Se n'è andato felicemente. Ma tu sei un cinico terribile. No, ma io come sempre sto ai fatti, come sempre. La telefonata era eloquente. Era un marito, non era un genitore, era un figlio. Però era il figlio che avrà avuto anche lui dei genitori. Ma tu però, hai visto il film di Ficarra e Picone la matassa, dove Salvo Ficarra apre un'agenzia proprio di Moldave. Ragazzi, glielo diciamo al padre. Ognuno è interessato ad andare a lavorare presso un anziano ben attrezzato. Rifornito. Guarda che da queste minolatte, come le chiamo io, è venuto fuori uno spaccato della realtà italiana. Molto interessante. Sono tardellate queste. Allora andiamo, cosa bolle in pentola? Ah, va bene, e voi l'avete evocato. È il famoso Don Matteo. Sor Maria non fa altro che parlare di lei. Marcello, le dispiacerebbe darmi qualche informazione sulle indagini? Mi hanno trasferito. Sono il nuovo parroco di Sant'Eufemia. Che bella notizia, Don Matteo. Allora, io ripeto sempre la struttura della società italiana. Il municipio, la stazione dei carabinieri, è il parroco, Don Matteo, in questo caso, il grande parroco che rassicura. Come dice Renzi, certo, l'unico Matteo l'unico che per Matteo adesso ha vinto è, in Italia. È Don Matteo. Vincerà Renzi. Io vorrei da te, Giovanni, da te, Pietrangelo, un giudizio, una previsione su che cosa succederà. Se ne va il buon Letta. Ma guarda, io Matteo penso farà il Presidente del Consiglio. Io penso una cosa semplice, che c'è una logica rigorosissima in questo. Cioè, Renzi ha vinto le primarie, tocca a lui governare. Letta ha fatto il suo lavoro di traghettamento, non ha una legittimazione di nessun genere, investitura particolare che non sia quella del Presidente della Repubblica, per ristabilire delle regole democratiche. Poi ce la farà Renzi, sarà bravo, sarà capace, questo è un altro tema. Pietrangelo? Ma io sono sicuramente per Matteo, però si chiama Salvini il mio. Pare che si sia allineato, ha detto che è disposto a incontrare l'altro Matteo, vedrai. Terenzil, questo qua Renzi. Lo voglio barbaro. Le prossime 48 ore sono definitive. Sono definitive, vediamo cosa succede. Allora, Salamino? Il Salamino. Allora, c'è un editoriale oggi su Repubblica di Barbara Spirelli, il titolo Come siamo arrivati al Fottiti Europa, in realtà è un Fottiti di Marò, perché la sostanza del pezzo è tutta costruita su questo concetto, e cioè che l'unica politica estera fatta agli italiani è quella di preoccuparsi di questi due Marò, e con inchiostro sprezzante viene risolta la questione dicendo che sostanzialmente già l'espressione utilizzata dal presidente Giorgio Napolitano è sbagliata. Con onore, dice, perché dovrebbero tornare in Italia con onore? Beh, io lo segnalo nel Salamino perché mi sembra piuttosto imbarazzante questa idea che, indossando una divisa, due cittadini italiani non debbano meritare l'attenzione che meritano, e soprattutto è uno sputo in faccia a quella tradizione, quella dei fucilieri. Sai cosa ti dico? Dimmi. Che Ezio Manuel la pensa al contrario di Barbara Spinelli, secondo me. Ho questa impressione. Guerra in casa del che il buon Ezio la pensi un po' diversamente, però va bene così. Lasciagli democratico, pluralista. Andiamo avanti. Io voglio evocare di nuovo il nostro grande, unico personaggio, il faro di tutto. Sì. Il denaro non dorme mai. Ho appena fatto $800,000 con loro su Hong Kong. Li hanno telegrafati a te. Giocaci. Sei stato bravo, ma devi continuare a far bene. Tu mi devi sbalordire. Informazioni, non importa dove o come le ottieni. Ottienile. Gordon Gekko, e perché? Il tuo eroe, il tuo eroe. Beh, cinematograficamente, diciamo, è uno che ha offerto molte battute interessanti. Molti stimoli. Grandi sceneggiature. Allora, no, perché c'è il tentativo. Anche i dialoghi. Bellissimi. C'è il tentativo di regolare in qualche maniera il mercato dei derivati. Ora, è un mercato che è una sorta di Far West. Vale circa 700 trilioni di dollari, una cosa che... incalcolabile. Quasi incalcolabile. E ci sono circa 22 entità dove si depositano questi contratti giornalieri. Per ogni contratto, con le nuove norme, in teoria, devono essere registrate un'ottantina di informazioni. I contratti sono circa 5 milioni al giorno. Ma capita, ce la faranno? Tutto questo o no? Sì, lo stanno facendo. Lo stanno facendo. Vuoi dire che c'è un controllo su questi derivati? No, in questo momento ci stanno provando. O meglio, c'è, però ci sono troppe entità, non si parlano. Beh, scusa, Lehman è andata giù anche per questo. No, ma dato che poi... c'è un intero sistema che... dopo quel fallimento si era detto, facciamo qualcosa. C'è un intero sistema che va avanti. Pensa se dovesse andare giù quel mercato, 700 trilioni. È inimmaginabile l'impatto che potrebbe avere sull'economia. Un grande falò di carta. Esatto. Allora, i nostri fedeli ascoltatori sanno che noi seguiamo con attenzione quello che succede nell'aviazione, nell'industria dell'aeronautica e così via. Perché? Perché Nokair, che è un vettore low cost thailandese, rinnova la sua flotta con dei Boeing che, insomma, un bell'ordine, 1,5 miliardi di dollari, non male. Perché dico questo? Perché mentre Alitalia sta discutendo del suo futuro e speriamo che arrivi alla conclusione con Etihad, il resto di quell'industria si sta rinnovando con grande forza. Quindi ogni settimana persa dall'Italia è del terreno concesso a dei concorrenti. A quelli che arrivano. Conserva le tue bolle, perché arriva. Diamo la viabilità e torniamo. Mix 24. È la sigla del nostro canzoniere, lo ricordo, 800 24 0024, il numero verde, l'SMS 349 238 6666. Pietrangelo, la domanda? Oggi è proprio facile. Voi mi strappate tutto, il lauro e la rosa. strappate pur, malgrado vostro c'è qualche cosa ch'io mi porto, e stasera quando in cielo entrerò fiero l'azzurra salutarne potrò ch'io porto meco, senza piega né macchia, Dio vostro malgrado. Ed è? Il pennacchio mio. Ah, pronti a rispondere alla domanda? 800 24 0024 349 238 6666. Intanto Mario, avanti con le bolle. Era Gabber? Bene, era Gabber. Ed è anche sempre Gabber. Perché? Perché il governo americano sta incentivando il consumo di pizza. Uno dirà, ma no, ma questa roba fa ingrassare gli americani, l'obesità. No, perché dietro le pieghe degli incentivi del Dipartimento dell'Agricoltura, che cosa c'è? Che praticamente si incentiva il consumo di formaggio. Che diventa che cosa? Condimento per la pizza. Beh, infatti, il 13% degli americani ne consuma almeno una fetta al giorno. Di formaggio o di pizza? Di pizza. Buona. Tieni presente che questo sistema di incentivi che cosa provoca? Provoca che per ogni dollaro speso dal Dipartimento americano i produttori ne guadagnano più di 4. È un sistema che funziona. Bisogna fare pizza in America. No, e tu incentivi gli ingredienti e poi sfornano il prodotto. No, certo. Devono usarlo il formaggio in qualche maniera. No, è molto interessante. C'è tutto un rapporto su questo punto. Naturalmente con la pizza che cosa ci vuole? La birra. Homer, e mi trovo qui perché la corte mi ha obbligato a venire. Tranquillizzati, Homer, con il nostro aiuto non toccherai mai più una birra. E perciò di quello che forse è un problema. Papino, bevi mai per conto tuo? Il Padre Eterno conta come persona? No. Allora sì. Ti occorre una birra per addormentarti? Grazie, ben volentieri. Nascondi mai la birra in qualche punto? Il grande Homer. A questo punto che cosa succede? Perché la birra? Perché ho visto i risultati di Heineken. Grandissimo produttore mondiale, sono usciti adesso quelli del 2013, ultimo trimestre, hanno un po' rallentato, diciamo in margini reali quasi un meno 2%. Si beve meno, però si beve di più nei mercati emergenti, Africa per esempio e così via. Quindi è interessante perché, come dire, vedi la crescita e decrescita a macchia di leopardo nell'economia mondiale, quindi una birra può darti degli indicatori interessanti. Chi l'avrebbe detto? Ma sull'economia. Intanto, Sara, abbiamo qualche... Sì, un vincitore, però Pietrangelo era troppo facile. Lo so, l'ho fatta facile. Sì, perché... hanno indovinato subito. Vabbè, però... Cyrano de Bergerac, lo dici meglio tu, Giovanni, dimmi. Ma dimmi chi è che ha vinto. Flavio, che però è timido e non vuole parlare in diretta. E da dove telefona a Flavio non lo sappiamo neanche. Non si sa, non ci ha voluto Posso dire fare niente. Un suggerimento a Flavio, dato che è così timido? Convochi un Cyrano che al posto suo chiami e lui suggerisce. Qualcuno insieme a lui. Intanto noi pensiamo a che cosa, dov'era il canone ieri sera con il professor Giorgio Simonelli. Non so se ci ascolta, professore. Buongiorno. Lei l'aveva inventato naturalmente, Cyrano de Bergerac? Sì. Ah, va bene, stiamo tranquilli allora. Sì. Allora questo canone ieri sera dov'era? No? Ieri sera ci sono stati 5 minuti di perfetto canone alle 21:15 su Rai 5. Ah, perché, sì. Udite. Sempre Rai 5, che meraviglia. Ma noi siamo dei fan di Rai 5. Perché è successa una cosa che non accadeva forse dal Medioevo. Addirittura. Prima del film, che era Io ci hanno sono fatto l'amore. La gogna a qualcuno. Prima di Io sono l'amore, il film di Luca Guadagnino, è andata in onda la presentazione del film. Come faceva Claudio Giffava. Allora, siccome in questi giorni mi è capitato, no, insegnando in un master, uno di quei master che butta fuoco di sprezzo, no, di far vedere un film, Ladri di Saponette, dove c'era proprio Claudio Giffava che faceva la parodia di se stesso, e questi ventenni cadevano dalle nuvole a vedere la presentazione di un film, ieri è andata in onda la presentazione del film, fatta da Marco Müller, che ha presentato questo film non alla maniera fumosa, criptica di Ghezzi, no? Che è diventata un po' di moda, ma in maniera molto puntuale. La rubrica si chiama 5 buoni motivi. sono i cinque buoni motivi per vedere quel film, facendo l'analisi di cinque sequenze mai viste. Ma scusi, cinque sequenze mai viste, perché uno il film non l'aveva ancora visto. Non l'aveva ancora visto, anticipando. Io non l'ho mai capita la presentazione del film. Ancora al Cineforum dopo, ma no, la presentazione... Perché il film bisogna in qualche modo anche promuoverlo, spiegare. Ma bisogna vederlo, se sei seduto lì per guardarlo, guardalo. Ma se uno dice questo film l'ha fatto ieri... Non siamo d'accordo. Mescola Fassbinder e Visconti. Va bene, non siamo d'accordo. È un po' come mandare il messaggio, professore, no? Dice uno, un'opera d'arte manda il messaggio, giustamente quello disse, ma vattene alle poste, no, e fai un telegramma. No, non fate così questo snobismo. Ma non è uno snobismo, siamo semplici. È che sono spremute di cervello le presentazioni. Bisogna grattarsi la testa per capire che cosa sta succedendo nei neuroni, poi. Professore, in minoranza sulla presentazione al film come un valore. Presentate i film e presentateli bene, e mostrando e analizzando il testo cinematografico. Faccio il professore. Stamattina. Ah, mi sembra proprio in pieno. Ma tu, allora, Mario, hai visto il canone da qualche parte ieri no, sera? No, io ieri ho guardato la TV, libri e musica. Consigliane ogni tanto qualcuno. Ah, sì, e sì. Tu? No, io l'ho visto, però non l'ho capito. E forse ha ragione il professore, me lo dovevano spiegare. No, per ho esempio... visto una cosa, ma non l'ho capita. Ma non lo so, era è appunto una spremuta di cervello, non lo so. Ma dove andava in onda? Dove andava in onda? Beh, sicuramente era un canale Rai. Spremute di cervello Rai. Allora, professore... Sì, lo sai perché? Perché siccome la situazione politica è complicata, ho immaginato che per fare i programmi, per fare i palinsesti, guardando i sondaggi non hanno capito come muoversi e fanno cose confuse. Questa è carina. Comunque, se vuoi un libro, se lo cercate su Amazon, Margaret Macmillan, 1919, sulla pace di Parigi e le conseguenze nefaste che ebbe, che produssero poi la Seconda Guerra Mondiale, ed è praticamente l'eredità che noi abbiamo della nostra contemporaneità. Margaret Macmillan, 1919. Bene. Professore? Posso andare più certo. Sul polare? Sì. Bisogna dire che, insomma... Queste Olimpiadi, liberate da tutti i problemi adesso politici, culturali... Mi piacciono. Sono delle belle Olimpiadi. Io non sono né un grande appassionato di sport invernali, né un sostenitore di Putin. Però, devo dire che il lavoro fatto da questi russi, dal punto di vista scenografico, della cerimonia, delle piste, del paesaggio... E il Però la neve marcia... Ma la neve marcia, ma questo pazienza, sa, dice. Si può governare tutto, ma non il tempo, diceva mia nonna, lo sa, il tempo. E poi la neve, professore, in Russia si presenta quando arriva un invasore. Allora lì generale inverno mette a posto tutto. Per quei adesso non serviva. Non toccare la memoria di Napoleone. Quei presuntuosi di francesi. Grande con stratega la loro della storia. Vergognati. Professore, devo lasciare, la ringrazio. Oggi Franco Zeffirelli compie 94 anni. Noi gli facciamo gli auguri, gli dedichiamo una puntata speciale con un'intervista a Giorgio Albertazzi, finale.